It's all right, that's what I see. Show me what to do. Free also, you set them free. Move your body, move on. Listen to me, baby. Don't you leave me alone. Cifiello, davvero uno straordinario cantante, non solo cantante, pianista e compositore, che devo dire si muove con molta disinvoltura attraverso vari generi, e questa voce calda, profonda e vellutata non solo ti dà la possibilità di reinterpretare delle cover ovviamente conosciutissime, ma dà adito anche a dei brani nuovi, inediti, che ho il piacere di trasmettere sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Grazie infinite, grazie. di cuore, davvero. Il CD è un CD di inediti che è uscito a gennaio, a cui tengo molto, si chiama It's the Time, e questo che abbiamo ascoltato è Move Your Body, la traccia 1. Però perché era arrivato il tempo di, sì, di fare generare di sì. dei brani tuoi. Ci sono varie collaborazioni con vari musicisti e un pianista che è venuto da Miami, abbiamo scritto cose anche insieme, che si chiama Valerio Cantori, e poi c'è Steve Rossi alla chitarra, che è un altro grande talento, e poi altre cose che ho fatto anche con Max Benassi, sempre con che è sempre qui con noi, ricordiamo, sì. Ormai si è così è defilato qui per dare spazio però è sempre qui ovviamente, sì, Massimo, sì, sì. Benassi non può mancare. Mi guarda mai, no, ma l'ho pronunciato bene questa volta, dai, è stata una S convinta. Se no, però dobbiamo dire la bolognese Benassi. Benassi. Per non sbagliare. Da veri bolognesi. Esatto. E quindi mi dicevi, appunto, in questo album It's the Time, abbiamo Move Your Body. Questo brano come ti è nato? È nato da un'ispirazione di ascoltando, era un periodo che ascoltavo molto funk. Quindi che va sempre molto Fire, bene, sì, Tower of Power, quelle cose, e da lì è arrivato il brano, cioè ti metti al pianoforte, alle tastiere e crei un groove di batteria, e da lì cominciano ad arrivare le note, gli accordi, le cose. Però al contrario delle cover, che ovviamente ogni volta poi vanno ad implementare delle novità, e in questo caso se fai un inedito e quello del brano, ovviamente hai già la tua base, però immagino che prossimamente nei live inizierai anche lì a sperimentare. Perché no, è vero. E poi la cosa bella, quando è possibile, quando uno si sente di fare questo, può anche rielaborare i propri brani inediti dal vivo e mettere degli abbellimenti, no? Stesso, esatto. Perché ci sono musicisti, tipo, per dire, il mio preferito, che è Sting, so, lui è una leggenda, sì, chiaramente, però con grande esperienza ha sempre offerto dal vivo i pezzi che tu conosci negli album, quindi che tutti però conosciamo, però dal vivo suonano diversi, perché li gestiva come arrangiamento in modo differente. Beh, dai un li gestisce, anzi, al presente anche. Dai la soddisfazione a chi, appunto, vede il concerto di gustarsi qualcosa veramente di unico, certo, quindi non la cover di se stesso, è ma vero, una vero, nuova è reinterpretazione. Vero. Proprio così, certo, con sempre qualcosina di nuovo, qualche cosa che succede quando sei sul palco, che in studio non è una magia differente. Lo studio è bellissimo, ma è diverso. E invece in Steel Breeze, anche questo è un inedito. Inedito che è firmato da me e da Max. E una canzone, diciamo, questa ha un suono molto statunitense, a mio giudizio. Non so se Max è d'accordo. Ricorda un po' le atmosfere, diciamo, di Lionel Richie, queste cose qua, se posso permettermi di dirlo, ma è quello che, diciamo, secondo me ha il brano. No, infatti ascoltavo prima così molto in modo sfuggitivo, sì. Ma qui chi si loda si sbroda, però poi vi siete guardati, vabbè, ma se siamo in due, cioè lo diciamo a vicenda, evidentemente qualcosa. No, vabbè, adesso a parte questo, no, poi dopo uno può giudicare adesso quando il pubblico ascolterà questo brano, che è di una dolcezza incredibile, è veramente insomma, sai, ci sono dei momenti in cui la creatività, particolarmente quando si crea insieme, e lo sa chi crea musica insieme, no? Ci sono dei momenti di magia. Ecco, io credo che qui abbiamo toccato veramente un momento di magia, di emozione, e abbiamo creato una bella cosa. Tra l'altro, ti ricordi quando tu facesti una intervista per Rai 1 o 2, misero su proprio questo brano, ti ricordi? Sì, qualche anno fa. Misero su Rai, sì, era Rai Radio 1. E misero su Steel Breeze per fu un'intervista, insomma, e quindi è vero, sì. E invece oggi non purtroppo ricordavo. Siete con Elisa Iacobucci. Mi dispiace, insomma, a Rai 1 erano impegnati, allora. Ma come dice il brano, c'è ancora brezza, quindi becchiamo questa rinfrescata, via. Walk on an empty shore. summer sky still brings, blowing way up high, everywhere, changing the season. Sono davvero tante le emozioni, ma vorrei condividerle in diretta. Grazie. In questa mattinata, visto e considerato che stavamo appunto raccontando dell'importanza della musica, dell'importanza di creare, di trovarsi anche solamente semplicemente in uno studio senza avere l'aspettativa di un qualcosa di preciso, ma con l'intenzione di... con la voglia di esprimere la musica, così come è successo collaborando appunto con Max e altri artisti. Ti trovi in studio e non sai quello che succederà, come dicevamo, e la cosa bella è quando esce qualcosa che secondo te funziona e che poi la gente recepisce e dici ma è una soddisfazione immensa. E poi ascoltarla, la musica è come è diverso, no? Arriva da... la assimili in un modo diverso che quando la produci. È magica, insomma. E sicuramente per i tuoi progetti, allora abbiamo visto questi brani che abbiamo appena ascoltato, che sono appunto degli inediti, ma ci sono anche degli album che appunto hai prodotto negli anni passati, magari certo. Vogliamo citarli, così anche chi è curioso poi dopo lasciamo i contatti e ci sono, ascoltare. Io al momento ho praticamente 4 CD, che sono 2 di inediti e 2 di cover riarrangiate. Uno si chiama Passions, dove ci sono cose che abbiamo ascoltato anche prima. Poi c'è It's the Time, che è quella il brano, il CD nuovo, insomma, che abbiamo ascoltato da Move Your Body. Poi c'è Have a Dream, che è dove contiene Still Breeze, che abbiamo ascoltato adesso, dove è firmato anche da Max. E poi c'è un altro che si chiama Timeless, che è un live in studio molto interessante, con fantastici musicisti, tutto registrato live in studio, quindi con contrabbasso, pianoforte e batteria. Quindi anche voce. Qui un ritorno alle origini, considerando sì. Con il un video. Sound molto jazz, molto, molto interessante, molto accogliente, molto caldo. Quindi ogni CD ha un suo mondo, diciamo, ben catalogato sono cose completamente diverse, quattro mondi musicali differenti. Però ogni mondo ti appartiene, quindi sei riuscito così a scovare dentro di te un'anima blues, un'anima rock, un'anima funky. Diciamo che tutto ciò che è lì è quello che mi attrae, quindi che mi dà la voglia di fare, di interpretarla a modo mio, quindi è così, è come dire una porta di entrata a un mondo musicale. Il mondo appunto di Enrico Cifiello. E, allora, qui c'è un brano che è stato un po' un'epopea recuperarlo, ma ci tenevamo tutti abbastanza per poterlo avere in un formato ottimale. E, è un brano che per te ha... Allora, significa tanto perché innanzitutto uno degli ultimi. E è stato scritto da me e da Valerio Cantori, che è un grandissimo musicista che vive negli Stati Uniti, a Miami. E mi piace molto perché mi sono ispirato ascoltando un brano di Billy Cobham, un batterista americano straordinario che ha fatto la storia. Chiaramente il brano è completamente diverso, però ascoltando questi artisti, anche solo musicisti, a volte ti portano, ti influenzano a creare delle cose su quel genere, quindi questo è un pezzo pop apertamente con impronta fusion, esatto, quindi fusion vorrebbe dire un insieme di generi musicali. Siamo in rientro, ormai praticamente giunti alla conclusione, e volevo passare il microfono a Max per ricordare un attimino le ultime cose per il concerto di questa sera, quindi dove andiamo e a che ora. Allora, intanto andiamo all'Hotel Relè Bellaria in via Altura 11 bis a Bologna, al confine con San Lazzaro. È una bellissima struttura a 4 stelle, e dove all'interno, nella sala ristorante, il venerdì sera trasformiamo questa sala ristorante in un club veramente con un'atmosfera, come diceva prima Enrico, americana. Questa era l'idea dell'inizio, era il sogno che piano piano abbiamo materializzato e ne siamo molto fieri. Doppiamente materializzato, visto che anche il libro ormai ha preso forma fisica. E allora, visto che voglio estendere a tutti gli ascoltatori l'invito per venire a provarci, non a trovarci, ma a testarci, voglio però ricordare il decalogo del Friday Night Blues. Prego. Perché non possono venire così sguarniti o pensando di fare quello che fanno abitualmente. Assolutamente no. Negli altri locali. Anzi, devono armarsi. Devono venire quindi pronti con la matita e il fogliettino. Prendiamo appunti, perché il decalogo del Friday Night People è: numero uno, amare la buona musica e il buon cibo. Essere disposti ad emozionarsi. Al 3 c'è avere rispetto per i musicisti. Al 4 sapere ascoltare, facendo godere a tutti il concerto. Il 5 invece è sapere che non è la TV a determinare capacità e bravura. Al 6 essere propensi a lasciarsi permeare dalla musica, godere del fatto di fare parte di un popolo di ascoltatori. Poi siamo all'8, essere pronti ad affrontare il viaggio assieme a noi, divertirsi in modo sano, equilibrato e positivo. E l'ultimo dei 10 è conoscere il significato di empatia. Siete benvenuti. Bellissimo. Sono allora, i 10 comandamenti. Questi sono i 10 comandamenti. E potremmo dire, per essere a i tutti gli effetti accettati all'interno del Friday Night Blues. A parte che questi, diciamo, siete benvenuti comunque, però queste sono cose importanti che possono far sì che, se venite, vi divertirete di più. Certo, poi sicuramente essendo la stragrande maggioranza ormai fedeli a queste serate, hanno ovviamente imparato questi 10. Allora, noi abbiamo assolutamente un pubblico di affezionati che ringrazio di cuore, perché scelgono di passare tanti venerdì con noi e fanno sì che comunque si possa creare questa magia, questa emozione, perché vengono, perché cercano, si vogliono, si nutrono di quello che noi gli diamo, di quello che gli artisti danno, esprimendo al massimo la propria passione, la propria emozione. E quindi chiaramente credo che sia un'opportunità. Non ci sono effettivamente tanti locali che danno questa opportunità, per mille ragioni, non perché noi siamo più bravi. Bisogna cercarlo, bisogna metterci dell'impegno, bisogna essere mirati lì. Esatto, hai capito? Bisogna avere anche la lungimiranza di credere in un progetto, perché se nel vostro caso avevate già in mente, perché sapevate che era possibile concretizzarlo, allora insomma chi ha creduto poi in questo progetto oggi ne trae i frutti. Direi di sì. Io vi ringrazio tantissimo, ovviamente invito tutti questa sera ad andare al concerto con Enrico Cifiello. Grazie. E noi ci sentiamo presto, perché ovviamente la stagione, poi in conclusione io voglio di nuovo qua come ospiti, perché voglio sapere le novità, le news e tutto quanto. E ti lascio magari anche te lasciare qualche contatto per trovarti, in modo da vedere anche su internet. Certo, dei siti. Sicuramente YouTube è è il mezzo più immediato, quindi basta digitare Enrico Cifiello e ci sono tutti i video live e anche in studio, ci sono cose molto interessanti. Poi ci sono 4 dischi in vendita, quelli di cui abbiamo parlato, che sono su bandcamp.com o iTunes o Amazon Music. Okay. Diciamo che sono Spotify e tutte queste cose permettono di ascoltare e anche scaricarsi e acquistare, perché no, i brani. Perfetto. Max, volevi aggiungere un'ultima cosa? Beh, parlando del web, non volevo dimenticare di chi vuole sapere il programma che finirà alla fine di maggio, può andare sul sito www.fridaynightblues.it oppure cercarci chiaramente su Facebook, magari cliccare anche il solito mi piace. Siamo già oltre 6.000 e quindi ci fa piacere crescere, ma soprattutto perché ci permette di rimanere in contatto quel mi piace, esatto. Non tanto perché vogliamo crescere col mi piace, ma perché è un modo per rimanere in contatto con chi vuole per rimanere. Continuare anche a farvi testare, esattamente, per vedere se ciò che oggi abbiamo narrato è davvero così nella realtà. Ma sicuramente. Allora noi vi lasciamo con un sogno, perché noi abbiamo un sogno, c'è chi è riuscito a realizzarlo, e concludiamo così con I Have a Dream. E vai, grazie ancora. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao Elisa, grazie di tutto. Baby, won't you listen? Baby, won't you take good care? Yeah, yeah. No, I won't be with you. I've been flying high in the air somewhere, somewhere. Early in the evening, baby, I'll be gone by the break of dawn. By the break of dawn, dawn. Baby, I'll be traveling right across the Atlantic. I'll be gone. Yes, I'll be gone, gone. I'll be leaving cause I wanna try. I have a dream and before I die, to make it big and to be a star, and hear my records in every bar. Let it be. Was in my mind.